Plus valore creato diviso capitale variabile anticipato. Plus valore creato diviso capitale variabile anticipato. 4 ore sono la base per la mia esistenza. 4 ore sono la base per la mia esistenza. Dalla quinta ora il lavoro è soverchio per il plus valore. Dalla quinta ora il lavoro è soverchio per il plus valore. La forma di estorsione distingue le economie delle società. La forma di estorsione del plus valore distingue le economie della società. La forma di estorsione del plus valore distingue le economie delle società. Plus valore sta al capitale variabile. Sfruttamento della forza lavoro. Plus lavoro sta al lavoro necessario. Sfruttamento assoluto della classe operaia. Plus valore sta al capitale variabile. Sfruttamento della forza lavoro. Plus lavoro sta al lavoro necessario. Sfruttamento assoluto della classe operaia.